Ma certo. Fammi pisciare. No, no, no, io, guarda, allora, dico la verità, io mi sono appassionato alla sua storia, tant'è che quando scrivevi il libro, mica avevi la sua fotografia, andavi a dormire con la sua fotografia. No, no, ma è bon, è una cosa, cioè c'è questa sorta di empatia, quando scrivi qualcosa che ti appassiona, c'è una sorta di, cioè rivivi, è come gli attori che devono recitare qualcosa e loro assumono pian pianino il personaggio. In effetti è vero. Però, torno a ripetere, per me Sante Pollastro non è stato un eroe, io a me non frega un cazzo la categoria dell'eroe, è stato un antieroe ed è stato forse l'ultimo ribelle nei confronti della modernità, della modernità, della modernità. Lui ha cominciato, tra le altre cose, a sparare i lampioni, ma perché? Perché i lampioni servivano alle ronde della questura per portar via i poveracci che per di... che abitavano nella zona, che abitavano a Novi per controllare chi rubava le bici, queste cose qua, insomma. Però al di là di tutto, al di là di questo, c'è cioè Sante Pollastro, io lo intendo appunto come un antieroe nei confronti della modernità, nei confronti di una modernità che, come dicevo prima, restringe sempre di più gli spazi di libertà proprio vitali dell'uomo e ti costringe a una vita. Ma sì, da impiegato di concetto, la cartina e la cosa e la firma e il modulino, queste cose qua, insomma. Cioè, poi chiaramente io identifico un aspetto, ce ne possono essere altri mille, voglio dire, ognuno di noi poi credo che abbia modo di vedere di persona, insomma, di giudicare di persona. La cosa, o no? Se volete ancora fare, io sono qua ancora finché mi portano a calù. Mi sono chiappè. Comunque, ragazzi, io voglio dire la verità. Passano le giunte di destra, di sinistra, di centro, democratici e liberali. Progressisti e conservatori, però ragazzi, Milano fa sempre più schifo, cioè, ma veramente brutta come città, proprio brutta, brutta, brutta, brutta. Pazzesco. Cioè, no, una città che incute, ti ho detto, Blade Runner, tipo Batman. Io credevo di vedere Batman, che cioè, una città proprio cupa, nel senso, no, questi vialoni enormi, anonimi, cazzo. Vabbè, anche la tua ambiente grasso non è che sia più un gioiello. Eh? E la tua ambiente Ma grasso? non è la mia vita grassa. Ma no, ma appunto l'umanità vuole inurbarsi e sono cazzi suoi. No, non è vero che questo è il progresso. Non è, perché io per esempio che collaboro, io per esempio collaboro con un giornale di infima categoria, si chiama L'Informatore Lomellino. Sì, è un giornale di infima categoria, nel senso che... ma sì, perché è un giornale, un giornaletto, insomma, come può essere La Libertà, non so, no? Peggio forse. E allora c'era, l'altra sera sono andato, sì, sono andato invitato. Pregato da alcuni residenti di un quartiere periferico, quartiere di San Pio, che du mal nom, San Pio, vabbè. Quartiere periferico che nel giro di qualche anno è passato da 800 abitanti ad averne quasi 3.000. Praticamente sono tutti quelli che si sono costruiti la villetta in periferia. E allora. Cioè, non i casermoni, la villetta. E tu vedevi, sono nate strade una do dopo l'altra, completamente desolate. Cioè, ville, lampioni, ville, lampioni, villette. Allora, questi qua si sono lamentati perché, stranamente, adesso cominciano ad avere dei problemi. Le fogne non tengono più, c'è chi va a rubare in casa, c'è chi rompe il vetro della macchina. Cioè, è diventato una periferia cioè invivibile, voglio dire, squallida, non c'è un servizio sociale, non c'è un bar, non c'è un cazzo, capito? Questi qua c'hanno gli stufi, vanno sulla mattina sullo stufi e vanno via. Poi tornano la sera e si lamentano, porco Dio. Allora io ho detto una cosa, no, No, no. E allora io ho scritto un articolo, quasi di fuoco su questo comitato di quartiere, dicendo: ragazzi miei, avete voluto la periferia, ve la tenete, ve la tenete. Questi qua mi hanno telefonato e mi hanno detto: ma qua e là, perché io ho detto: allora, per evitare di avere questi problemi, bisogna evitare di costruire in quel modo, bisogna evitare che le nostre città diventino dei tritacarne, trita tutto. E loro sai cosa mi hanno risposto loro? Ma questo è il progresso, ma vada via il culo allora! Cioè, non me ne frega un cazzo, se l'uomo vuol fare così, vada a fare in culo! Ma la terra le piene di deserti, che tanta spassi, ma va. Allora ti dico io, allora vuol dire che noi adesso stiamo scontando quello che Pasolini, e solo lui, purtroppo, diceva. Pasolini cosa diceva? In cinque anni, si è fatto ciò che in 20 anni il fascismo non è riuscito a fare, cioè si è completamente distrutto questo paese, tranne poi svegliarsi un giorno, guardarci indietro e avere la percezione che tutto ormai è distrutto. Come cazzo fai a riportare la gente alle campagne? Allora, cazzo, ma chiediglielo a Casini, vaglielo a chiedere a Berlusconi, mi fu no il politico, oh. Ci sono i democratici, ci sono i conservatori. Diciamo che lo scrittore non dà risposte, ma propone dei problemi. No, ma io do anche una risposta. E la risposta è questa qua. Forse non tutti si sono resi conto che in questo paese, che, come dice Sciascia, non ha né memoria né verità, perché in Italia non c'è una memoria, non c'è una verità, cioè, voglio dire, si trovasse un colpevole per le stragi, per quello che è successo, un cazzo, va bene, a parte quello. Forse nessuno si è accorto che in questo paese, è stato l'unico in tutta Europa, è successo qualcosa di terrificante. E questo qualcosa di terrificante è successo tutto, come diceva Pasolini, in 5, 6, 10 anni. Cioè, che cosa? La deportazione a fini economici di... quanti? 500, 600 mila contadini meridionali, capito? Che sono stati costretti a lasciare le loro terre e a fare le città come sono adesso. Ma non solo i contadini meridionali, i contadini. Perché la Lomellina, per esempio, si è svuotata. C'erano paesi in Lomellina, un esempio, Cozzo, l'antica Cutie, situazione che c'era transito di imperiale, citata da Ammiano Marcellino. Benissimo, Cozzo nel dopoguerra aveva 2.000 abitanti, 2.000, oggi ne ha 290, sono andati tutti a fare i tranvieri a Milano, sono andati a lavorare alla Breda, capito? Questo è quello che è successo in questo paese, cioè questo paese è stato distrutto dalla follia industrialista. E questi sono. Adesso noi ci troviamo davanti a problemi irrisolvibili. Con l'aggravante che però che la gente non ha ancora acquisito la coscienza di quello che è successo. Perché? Perché la si è negata. Perché 50 anni di cancrena democristiana l'hanno negata questa coscienza. È questo che non capiamo noi. Quindi quando uno mi dice: sto in un posto di merda, cosa devo fare? Non lo so, vai via da quel posto di merda, non comprare la casa lì, non so, per altre situazioni rivolgiti, guarda, c'è Berlusconi, Veltroni, Casini, Follini, sono loro. O rivolgetevi agli uffici tecnici che fanno i piani comuni, i piani, come si chiama lì, i piani urbanistici. Mi fu libero di male, non che per risolvere il problema del mondo, Io mio figlio, glielo dico sempre, a 9 anni, e gli incuto timore, lui mi guarda. Lui no, però ti chiede Gormiti. I Gormiti mi chiede, no, mi dice, dico Dylan, l'ho chiamato Dylan in onore a Dylan Thomas, il poeta, no Dylan Dog, Dylan Thomas il poeta. Povero bimbo. No, Dylan, infatti Dylan, che nome è? Non devo... Vabbè, cosa devo chiamare? Arturo lo chiamavo, ragazzi. Vabbè, allora gli dico, Dylan, non andare a abitare, cioè, non andare a abitare in città, non andare a abitare... Là, stai lontano, vai in campagna, vai in campagna. E lui dice, perché? Perché in città, che gente cattiva! Conto lasciare 8 ore, io li vedo i bambini, ma sciopen, voi non vi rendete conto, i bambini sono già stressati a quest'età, eh? Vabbè. Male, no, malissimo, no. Malissimo, sono stato già richiamato qualche volta. Eh no, voi ridete, ma è una cosa, sembra abito in fiera, eh? No, con gli alunni è abbastanza bene, però sai, se loro sono, loro vivendo in una realtà che comunque, li vedi che soffrono questa mancanza di spazio, il fatto di stare in una classe, e poi un'altra cosa, cioè loro non hanno poi, non aderiscono, come dicevo, continuo a ripetere questa frase qui, vabbè, non aderiscono proprio alle cose concrete, nel senso che, meno male, io credo forse che l'unica sistema, metodo di studio che può venire incontro alle esigenze di un bambino sia il metodo di Steiner, però non è assolutamente previsto dei nostri...